Macchina sportiva, assetto sportivo, pesce crudo e vino. Fusi a pompo, fusi col mirino. Arrestano il mio amico, pensano di fermare il giro. Fanculo a tutti gli sbirri, c'è l'amico dell'amico. Sei l'amico del nemico, fai parte dei nemici. Bevo whisky, whisky liscio e mi sporco la t-shirt. Vado matto per il rischio, giuro morirò ricco. Se non la faccio finita, sparo in testa qualche sbirro. 46 nel cappello, come Valentino. Sto scopando Valentina, nella sua Alfa Romeo Mito. In macchina con due scipe e due magrebini. Spedizione punitiva, mica ti parlo di shipping. Ho un amico che fa shipping e l'altro che fa shopping. Finisco un altro whisky, finisce che ti sciotto. Ho un amico che fa shipping e l'altro che fa shopping. Finisco un altro whisky, finisce che ti sciotto. Yo, Simba, questi rapper non mi stanno simpa. Fanno sick perché la mia sig non è finta. La mia Lambo è in tinta con l'asfalto dove ti spalmiamo tipo Simmental. La tua tipa è una scimpa. La mia bitch invece è piena d'oro tipo Sinta. Mentre sta sotto una palma, lei smarchetta a palma, gira pimpa. La mia click è Rambo, la tua click è Rimba. Quanti scemi ho affumicato tipo Aringa. L'avvocato fa la ringa, salva il culo ai miei fratelli. Distruggiamo il tuo quartiere stando a bordo di Mazinga. Pesi 20 e voli con schiaffi che prendi, mentre peso 120 e non conto nei gioielli, nella minchia. Ho un amico che fa shipping e l'altro che fa shopping. Finisco un altro whisky, finisce che ti sciotto. Ho un amico che fa shipping e l'altro che fa shopping. Finisco un altro whisky, finisce che ti sciotto. What up Simba, La Ru, yes yes yo, G-G-G-G-G-G-G-U-E. Sono due tipi di shopping e in tutti e due i casi si esce con i pacchi.